Ok, allora, dopo questa bella mazzata di questo documentario qua, torniamo sul territorio italiano e facciamo un parallelo con quello che succede qua. Ora, a qualcuno potrà sembrare un po' forzato questo collegamento fra questione del controllo sui palestinesi e strumenti di controllo nel mondo civilizzato occidentale. In realtà non ci sembra che lo sia per diversi motivi, sia perché gli strumenti tecnologici che vengono messi in campo sono in realtà sostanzialmente gli stessi, ma cambia il livello, il grado di applicazione, cambia ovviamente il contesto, cambia la conflittualità sociale che è messa in gioco, però le tecnologie sono sostanzialmente queste, se non anche ulteriori. E non fosse altro perché alcune di queste tecnologie vengono direttamente da aziende israeliane, soprattutto per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche o sui canali internet, questi in particolare, ma anche nell'efficientamento delle risorse, delle materie prime, che è un altro campo di applicazione, anzi forse quello equivalente al controllo, ma anche l'efficientamento dei flussi infrastrutturali, si pensa all'energia, al gas, ai tributi, a tutte le utility. E poi, a mio modo di vedere, c'è anche una questione più di fondo, che è una questione, se vogliamo, dal punto di vista ideologico, è un certo modo di intendere la tecnologia e un certo modo di intendere la scienza, che in parallelo con lo sviluppo del capitalismo negli ultimi 2-3 secoli ha visto una concezione della scienza come impostata su un paradigma razionalista, utilitarista, tecnicista, per cui oramai si individua sostanzialmente una sfera di dominio tecnoscientifico, e per cui si dice che la tecnologia è neutra a seconda dell'utilizzo che se ne fa, può cambiare, ma in realtà anche no, perché alcune tecnologie sono proprio pensate appositamente per essere finalizzate al controllo e alla sorveglianza. Tutte queste tecnologie e molte altre che possiamo analizzare nei contesti di sperimentazione delle smart city in Italia, perciò bisogna anche riflettere sul ruolo proprio della tecnologia e sul mondo scientifico. Comunque, allora, adesso facciamo una carrellata abbastanza veloce per non essere troppo noiosi o perderci sulle situazioni italiane, quelle principali, e poi ci concentreremo più sul contesto romano con Elisabetta. Sì, aggiungo giusto delle cose che mi vengono in mente che non sono state dette precedentemente. Questo delle smart cities è un paradigma che rientra in una visione di sostenibilità ambientale e sociale dettata dagli organismi internazionali di riferimento ONU, ma non solo, in realtà soprattutto il World Economic Forum, che in realtà è sostanzialmente un consesso privato di grandi considenti finanziari, e che delinea la possibilità, anzi delinea l'unico modo possibile per gestire i futuri disordini ambientali e sociali, implementando il più possibile il controllo tecnologico, la sorveglianza dei flussi sia delle persone che delle merci che delle materie prime. Quindi è un modello di riferimento basato anche sull'azione di alcune grosse fondazioni private come la Rockefeller Foundation, la Bill Gates Foundation, eccetera, eccetera. C'è questo programma internazionale che si chiama C40, C40, in cui viene sperimentato questo concetto di resilienza urbana a 40 città scelte per le loro caratteristiche peculiari a livello internazionale, tra cui risultano anche Roma e Milano. Quindi diciamo l'impronta è un'impronta sostanzialmente dall'alto verso il basso, beh, questo è evidente, però ecco, ci sono tutta una serie di documenti che andrebbero approfonditi e studiati per capire il contesto, che viene calato, come viene calato. Ora, a livello italiano, sostanzialmente vengono sperimentate alcuni aspetti di questa città intelligente, a seconda dei contesti variano perché insomma ci sono delle specificità diverse, ci sono delle storie, ci sono delle insomma individuate emergenze differenti. Partiamo, non so, da Milano, partiamo da Milano dove le questioni principali sono sicuramente la mobilità diciamo, e poi il contesto romano si ispira sulla mobilità molto a quello che è l'evoluzione di come viene affrontata a Milano con questa serie di varchi elettronici di videosorveglianza, con una serie di zone a flusso limitato o addirittura a pagamento, e questo è previsto anche in prospettiva su Roma, quindi diciamo, l'area centrale di Milano ha questo ticket d'accesso sostanzialmente annuale e ha la tecnologia della sorveglianza sulla scatola nera, per cui tu hai un plafond di tot di chilometri all'anno che puoi, cioè tu che hai un'automobile che non è previsto che possa più circolare all'interno di una data zona, centrale o semicentrale, hai un plafond di chilometri che puoi fare all'interno dell'anno o altrimenti una serie di una quantità di accessi, una quantità di accessi all'interno del perimetro della zona limitata, e questo viene controllato tramite telecomunicazione satellitare ed anche con la possibilità di elaborare i dati in prospettiva in modo centralizzato, mettendo a sistema tutti quanti le videosorveglianze sulle varie zone, che hanno diciamo, categorie diverse di possibilità di utilizzo. Questo anche a Torino, questo è abbastanza in modalità avanzata questo sistema, e a Roma ce lo spiegherà meglio Elisabetta, però questa diciamo, la strada che è tracciata sulla mobilità. Per quanto riguarda Milano, Milano è all'avanguardia sulla smart city, in particolare sull'efficientamento dei servizi del gas, della luce e della gestione dei rifiuti, che ovviamente deve essere tutto iperquantificato negli spostamenti, nelle quantità e potenzialmente anche eventualmente razionalizzabile, cioè a seconda delle emergenze che possono nascere. Milano ha in particolare anche una caratteristica rispetto a queste partnership pubblico-private nel settore soprattutto sanitario, tra l'Ospedale Galeazzi, il Tecnopolo Scienza della Vita, la Fondazione Triulze, l'Università di Milano, che stanno elaborando dei metodi di trattamento dei dati sanitari per fornire applicazioni di telemedicina, di medicina digitalizzata, il più possibile, secondo loro, calata sulla caratteristica specifica del paziente. E poi Milano ha anche, diciamo, la sperimentazione più avanzata questo concetto di città dei 15 minuti nel quartiere di Lorenteggio, di Loreto, di Piazza de Loreto. Si sta sperimentando l'applicazione del concetto di città dei 15 minuti che non l'abbiamo accennato, però è una parola su che cosa vorrebbe essere. Cioè, quest'idea di nuova urbanistica che prevede che le zone, si passi dalla teoria urbanistica della zonizzazione, per cui alcune zone sono dedicate a singole funzioni e quindi svolgono esclusivamente quello, a sostanzialmente dividere la città in zone policentriche in cui la vita si deve svolgere esclusivamente all'interno di queste zone, per cui teoricamente dovrebbero avere tutti quanti i servizi garantiti all'interno di questa, con lo spostamento di 15 minuti al massimo. Questa è la teoria di Carlos Moreno, magnificata dall'urbanistica attuale, però in realtà anche messo a critica. Poi ci sarà da chiedersi su questo derivare 15 minuti se effettivamente sarà così uniforme nella sua applicazione a livello di zone della città o se piuttosto, come si potrebbe ipotizzare, le zone centrali e semicentrali saranno in qualche modo trattate meglio di quelle periferiche, come sempre è avvenuto storicamente. E quindi magari si potrebbe preferire nelle zone periferiche attuare mettere in piedi piuttosto gli strumenti di sorveglianza e di controllo sociale piuttosto che quelli di efficientamento dei flussi di materie prime, di utilities, di servizi vari. Però insomma, sta sperimentazione con grandi architetti, eccetera, eccetera. Per quello che ne so, al momento è abbastanza ferma, più che altro per gli impicci burocratici e per distribuzione di finanziamenti su Milano. Mi rendo conto che forse sto anche prendendo troppo spazio per ogni singola città, però per darvi un quadro, allora, Trento si qualifica soprattutto per le tecnologie di sorveglianza. Qui sono sperimentati tre progetti che hanno dei finanziamenti europei, sono Precrisis, Marvel e come si chiama l'altro? Non mi sfugge. Vabbè, non mi sfugge. Però sono sostanzialmente si va dall'analisi dei flussi dei social network localizzati, geolocalizzati. Questo è pre-crisis che dovrebbe prevenire eventuali disordini sociali, eventuali emergenze. Alla sperimentazione di sistemi di riconoscimento facciale con telecamere che hanno una risoluzione ottica molto spinta, alla intercettazione audio in spazi pubblici, quindi con microfoni ovunque. E la possibilità di mettere in connessione dati audio e video con l'analisi dei social network. Boh, c'è da dire che sì, siamo nel mondo civilizzato, quindi abbiamo le garanzie sulla privacy, tutte queste normative qua, e quindi diciamo, c'è un filtro in qualche modo di rallentamento su questo tipo di interventi. Il garante della privacy fa le sue indagini. Per il momento decelera questi processi, questo sta avvenendo anche a Roma, in particolare sulla metropolitana e sulla situazione di Venezia, notizia di ieri. Su Venezia abbiamo questa mostra della compagna bravissima che è riuscita a riassumere la situazione molto complessa di Venezia. Nel primo pannello c'è una ricostruzione concettuale della smart cities, la gestione dei flussi, dei dati, che ovviamente tutto questo non è solo sorveglianza, è anche profilazione dei comportamenti, classificazione delle classi di utenza potenziali per poter fornire servizi commerciali ulteriori targetizzati su quel tipo di utente piuttosto che su quell'altro. A Venezia accade che alcuni fondi europei sono stati investiti in particolare per questa Smart Control Room, che è in Italia, diciamo, l'avanguardia per quanto riguarda i sistemi centralizzati, informatizzati di intersezione di dati a diversi flussi e la possibilità che ha la polizia giudiziaria di utilizzare al massimo delle potenzialità questi strumenti, in particolare quelli di videosorveglianza, per andare sostanzialmente anche a individuare i tratti biometrici di chi è ritenuto che abbia qualcosa da indagare sopra. La Smart Control Room si trova in un'isola artificiale di Venezia, l'isola del Tronchetto, dove è stata costruita questo set è un set enorme di monitor, ci sono diversi livelli diciamo, di possibilità di analisi, da quello che, diciamo, che può mettere in campo un singolo funzionario comunale ha l'utente, cioè l'operatore di una società privata ha funzioni di polizia di pubblico ufficiale o di polizia giudiziaria. Ora, questo sistema, al di là, diciamo, dei flussi di traffico, sta trovando la prima applicazione concreta nella messa in campo di questo ticket d'accesso di cui da Venezia si parla da tantissimo tempo e che finalmente sono riusciti a mettere in piedi. Con, diciamo, la motivazione della turistificazione eccessiva di Venezia, quindi la necessità di controllare i flussi turistici e quindi l'ipotesi è che mettendo un biglietto di accesso a un territorio pubblico, quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti fruibile indistintamente senza nessun tipo di limitazione. Ok, questo, diciamo, questa applicazione per il momento è limitata a 29 giorni individuati come quelli più caldi per gli accessi turistici e sembra giustificata in realtà soprattutto dalla necessità, cioè necessità dalla sperimentazione di tirare fuori la mole più ampia possibile di dati sui comportamenti, perché questo ovviamente viene incrociato con da dove vieni, dove pernotti, dove vai, da chi vai, di chi sei amico, perché poi c'è tutta una serie di esenzioni sconfinate per cui si stima sostanzialmente che solo il 5-10% di chi accede a Venezia giornalmente dovrebbe pagare questo ticket d'accesso. In realtà poi c'è tutta una serie di esenzioni che però vanno comunque giustificate per cui, per quale motivo sei lì, dove vai, con chi vai, come ti comporti, eccetera, eccetera. Quindi messo incrociato con la videosorveglianza che c'è soprattutto all'ingresso di queste, diciamo, ci sono tre aree franche all'ingresso da cui si può accedere al centro storico di Venezia, dove sono state sperimentate queste telecamere che hanno la capacità di distinguere i comportamenti, di categorizzare i comportamenti umani in qualche misura. E diciamo, proprio questo aspetto qua è sotto l'occhio del garante della privacy che ieri ha aperto ufficialmente un'indagine. Vabbè, ci sono grossissimi investimenti anche da parte di Leonardo, della TIM e di altre imprese internazionali di telecomunicazioni e servizi digitali. Per Venezia credo che c'è l'applicazione dell'internet delle cose, ovviamente, che vuol dire mettere sensori poi anche in modo mobile, quindi diciamo, la potenzialità ulteriore del 5G dell'internet delle cose è quello di riuscire a trasferire grossi moli di dati anche su oggetti in movimento connessi tra di loro e anche diciamo, applicati a tessuti abbigliamento piuttosto che insomma e che entrano nelle case poi di tutti. Sì. Allora, passiamo a Bologna. Bologna si distingue in particolare perché l'Università di Bologna sta sostanzialmente mettendo in piedi più grosso polo di elaborazione dati in Italia, cioè un computer potentissimo con la fondazione Emblema e Leonardo Spa, che dovrebbe essere sostanzialmente il più grosso polo computazionale in Italia. E questo trova applicazione, ecco, questo supercomputer di Leonardo trova applicazione in questo distretto tecnologico e in particolare a livello locale sul monitoraggio della mobilità, sulla smart mobility. Vabbè, vabbè, ci sono varie fondazioni, sia pubbliche che private, che intervengono, in particolare la fondazione Bruno Kessler, che anche su Trento, cioè che è della zona di Trento e che è connessa a tutti gli altri progetti che vi dicevo prima su Trento. Ci sono finanziamenti del progetto Horizon 2020. Curiosa è questa cosa che stanno cercando di fare a Bologna, il gemello digitale della città, cioè sostanzialmente ricostruire virtualmente la città, proprio l'urbanistica della città, palazzo per palazzo, strada per strada, lampione per lampione, un modello virtuale che in qualche modo dovrebbe facilitare il controllo e la predittività, la predittività dei comportamenti. Poi diciamo, la cosa che è emersa un po' più sulla cronaca, che su cui hanno spinto molto, queste zone 30 in cui la circolazione veicolare dovrebbe essere limitata a 30 km/h, questo accoppiato con l'utilizzo di questi telelaser che sono in grado di individuare anche i comportamenti all'interno del veicolo, per cui se stai parlando al telefonino piuttosto che stai avendo un comportamento non conforme, e quindi incrociando quindi i dati video con quelli dei parchi, si sistema TrueSpeed e TrueCam con una risoluzione 7x. Poi va bene, poi abbiamo anche la sperimentazione, questo sia a Bologna che a Roma, che a Fidenza, che anche a Codogno, la sperimentazione di questa carta appunti del buon cittadino, per cui queste sono cose ancora molto sperimentali, però sono impostate soprattutto in modo premiale, per lo più, per cui in particolare con Fidenza ci hanno fatto un po' scalpore l'assegnazione delle case popolari è sottomessa, diciamo, una serie di punteggi, per cui se hai un comportamento che invidia a cena troppa gente risulti potenzialmente sgradito, per fare un esempio, insomma, però comunque cioè, si sottomette l'assegnazione di un servizio, magari anche, diciamo, che già è disponibile in quanto servizio assistenzialista, però in questa logica viene addirittura proprio parametrizzato sulla tua classificazione del comportamento. A Roma c'è stata la sperimentazione con la giunta 5 Stelle Raggi, che insomma, ha una particolare predisposizione all'utilizzo di questi strumenti digitali anche nella partecipazione pubblica, ma anche su questa cosa dei mercati sociali, in particolare a Ostia. Per cui sostanzialmente l'accesso alle fasce svantaggiate alla possibilità di fruire in emporio, in un mercato sociale così detto, viene sempre condizionata a una serie di punteggi e di premialità di portafogli del cittadino virtuoso. Questo per quanto riguardava Bologna, Codogno. Su Udine, diciamo, ci sono alcuni di questi strumenti, sono in particolare della control room, della smart control room della polizia locale. Quindi, diciamo, l'integrazione di tutte queste videocamere di sorveglianza, ottiche montate su apparati video, dispositivi di riconoscimento delle targhe, videosorveglianza predittiva, protocollo di sicurezza partecipata. Ecco, questo tra l'altro è un altro elemento che si basa sostanzialmente sulla delazione, cioè sul fare la spia. Questo l'abbiamo visto molto bene nel periodo pandemico, è stato molto incentivato, diciamo, la delazione, la colpevolizzazione, lo stigma sociale, eccetera eccetera eccetera. Si progetta un contributo d'accesso anche a Udine, tra l'altro anche per l'accesso non so se era la zona dello Stelvio, delle Dolomiti, anche lì si sta progettando un ticket d'accesso. Poi queste cose, ecco, sono anche nelle città più piccole, Codogno, Caorle. Sì. E Firenze si distingue in particolare per l'utilizzo dei droni per la videosorveglianza della sicurezza urbana. E per questi strumenti di partecipazione della cittadinanza, che sostanzialmente, cioè, uno si immagina che vengano fissati degli obiettivi da raggiungere tutti insieme, e in realtà gli obiettivi sono dati a priori in questi processi di partecipazione, e si discute solo di questioni tecniche, quale strumento utilizzare, quale sistema operativo. Questa. Queste sono tutte iniziative prese dai comuni. Questo a Firenze. Ministero. A Firenze, dai comuni. Sì, dai comuni. Vabbè, poi questi sfruttano però dei finanziamenti che vengono dal PNRR piuttosto che da Horizon, piuttosto che. Sì, fondamentalmente fondi europei e nazionali, però attività dei comuni anche locali. Ah, c'è anche Bolzano, non dimentichiamoci di Bolzano. Il programma Sinfonia, che bei nomi che ci mobilitano tutti in corpo. Ah, ok, questo è sulla, sì, questo è connesso a, perché Bolzano è l'avanguardia sull'efficienza energetica delle case, cioè questo progetto Casa Clima per l'efficientamento sia dell'elettricità che del riscaldamento, del teleriscaldamento, impianti fotovoltaici infissi di ultima generazione, fonti rinnovabili, smart point, 150 centraline ipertecnologiche in grado di tenere sotto controllo tutti i parametri meteo, flussi di traffico, qualità dell'aria, eccetera, eccetera, eccetera, per ricaricare le biciclette elettriche, 30 milioni di euro, interventi sulle case popolari. Mi sembra tutto molto bello. Tutto molto bello, Bolzano. Okay. No, vabbè, ok. Passiamo a Roma. Vediamo se è tutto molto bello anche a Roma. Allora, io per quanto riguarda Roma, vorrei, dopo tutto questa disamina che abbiamo fatto, riportarlo un attimo sul terreno politico. In che senso? Allora, noi spulciando tutto quello che è teorizzazione e appunto teoria sulla città dei 15 minuti e sulla smart city, ci siamo imbattute in delle definizioni emblematiche, no? Per esempio, il manifesto della città dei 15 minuti di Carlos Moreno ci dice: è tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana. E poi ci racconta che le attività vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere devono essere fatte tutte possibilmente a 15 minuti di tempo, tutte in uno stesso luogo e più possibile vicino. Questo per garantirci una migliore qualità della vita. Però poi ci dice, questo è testuale detto da lui, preservare la nostra qualità della vita significa reimpostare il tempo e lo spazio. Che vuol dire questo? Che prima di tutto c'è un progetto ideologicamente preciso, quindi non c'è niente di casuale e niente di dettato da tempi del cambiamento climatico, dell'insofferenza dei cittadini rispetto al traffico, problemi urbani di vario tipo, niente di tutto ciò. Hanno in testa di modificare completamente i tempi e i modi della nostra vita perché in questo momento gli serve. È un progetto di trasformazione globale della società. E questo come si riflette poi dal punto di vista dello spazio e del tempo, cioè nel territorio? Si riflette con tutta una serie di meccanismi che, nonostante le differenze che ha detto Giulio nelle varie città, che dipendono dalle situazioni locali, dalle esigenze locali, che sono anche uno strumento per farle passare in maniera migliore, In effetti sono tutte impostate su tutta una serie precisa di obiettivi. Cioè, allora, costituire le città dei 15 minuti, costituire sulle città dei 15 minuti la smart city, perché serve un territorio localizzato, definito per far funzionare meglio l'internet delle cose, ridefinire quindi percorsi carrabili, pedonali, vita dei cittadini, lavoro, lo smart working, si uscirà dalle città dei 15 minuti soltanto per servizio e non per i lavori socialmente più elevati che faranno tutto al computer, si comprerà con lo shopping online, si manderanno i ragazzini a scuola soltanto lì dentro. Allora, queste sono... Sì, esatto. Questo è un progetto. Allora, come si inserisce? Cosa sta facendo Roma rispetto a questo progetto? Allora, intanto Roma ha un piano per Smart City, per Roma Smart City. Se lo leggete, fate un salto sulla sedia, vi consiglio di andarvela a prendere, perché è cioè tutto quello che io vi racconterò è comunediroma.it, quindi è pubblico. Il fatto che la gente non lo sappia è perché viene presentato man mano come un intervento qua, un intervento là, un intervento slegato dall'altro, lì per il bene del cittadino, là per il bene del traffico, là per il bene. E invece, se voi leggete il piano per Roma Smart City, c'è scritto tutto. Fra cui una cosa che a me mi ha fatto particolarmente riflettere, che dice: Roma è una città che riflette sul significato della vita, ospitando non solo la sede di una chiesa a vocazione universale, ma anche tre organizzazioni multilaterali che costituiscono il polo agroalimentare delle Nazioni Unite, FAO, IFAD, WFP. Roma è la culla dell'umanesimo digitale. Quindi loro ce la presenteranno così, che praticamente Roma non solo ha una vocazione digitale, ma connette questa vocazione digitale con la sua storia, con la sua cultura, con la grandezza di Roma. No? Allora, per impostare Roma come smart city, prima di tutto il comune si è trovato di fronte al problema di impostarla come città dei 15 minuti. E impostare Roma come città di 15 minuti è facile e difficile allo stesso tempo. È facile perché Roma è fatta da una serie di quartieri che hanno una grande identità e sono molto circoscrivibili. Cominciamo dal centro storico, cioè il centro storico, quello rinascimentale all'interno del Tridente, dell'Ansa del Tevere, poi ci sono Trastevere, c'è Testaccio, c'è Borgo, c'è Monti, cioè praticamente sono tutte situazioni territoriali facilmente definibili e facilmente identificabili già territorialmente. Questo è possibile, cioè questo viene fuori anche nella prima cintura, perché la Garbatella, San Lorenzo, ma anche quartieri come Flaminio, Prati, come i Palioli, cioè sono una cintura di quartieri che hanno un'identità forte. E questa identità forte la troviamo anche nella periferia propria, quella periferia storica. Centocelle, il Quadraro, la Garbatella, il Val Melaina, Prima Valle, sono anche lì periferie che hanno una notevole identità territoriale e popolare. Questo che cosa, perché è importante? Perché il comune si trova di fronte a una situazione semplificata, perché sono circoscrivibili territorialmente, a una situazione più complicata se ci dovesse essere, che per adesso non c'è, ma dissenso, perché l'identità territoriale e l'identità popolare si presta a essere momento di dissenso, perché ci si riconosce o in una cosa positiva o in una cosa negativa, ma collettivamente. Questa può essere un'arma che noi abbiamo in mano e che potremmo usare, dovremmo cercare di usare, se non ci fosse un altro tipo di problema. Io sto parlando sempre per adesso della Smart City. Il problema è l'associazionismo sociale che c'è in questi territori. L'associazionismo sociale può essere anche lui un'arma a doppio taglio, perché l'associazionismo sociale connivente con le scelte di potere è un grosso problema, perché trascinerebbe i quartieri in un discorso politicamente corretto di beni comuni molto pericoloso e spingerebbe a accettare tutta una serie di cose. Se l'associazionismo sociale non fosse connivente, ma fosse antagonista, sarebbe una grande arma di supporto. E questo noi ce lo dobbiamo ricordare, perché noi ci dobbiamo porre il problema di come agire prima che sia troppo tardi. Allora, questo per quanto riguarda la Smart City. Per quanto riguarda invece la città dei 15 minuti, per quanto riguarda invece la Smart City, che praticamente è un incrociarsi, no? Perché la Smart City è la modalità di tutti gli elementi che ci sono in un territorio attraverso l'internet delle cose, di rapportarsi tra di loro, di convogliare una serie infinita di dati. Questi dati possono essere usati per il controllo, per la commercializzazione, per la standardizzazione dei comportamenti, per la cosiddetta sicurezza che lasciamo perdere, che cosa può essere. E quindi il comune che cosa sta facendo? Sta lavorando su due piani. Da una parte il problema del traffico, della situazione del traffico. Dall'altra le cosiddette sperimentazioni locali, che riguardano una addirittura, noi adesso, cioè è stata scoperta questa cosa della Smart City, della città dei 15 minuti, però noi siamo venuti a conoscenza già diversi anni fa, nel 2014-15, dell'impostazione di quelli che vengono chiamati, che ancora adesso Gualtieri chiama le isole territoriali ambientali, le isole ambientali. Le isole ambientali nel 2015 erano legate al piano del traffico. Allora, piano del traffico vuol dire che era stata presa di punta tutta una serie di situazioni circoscritte a queste isole ambientali ed era stato deciso di dargli delle caratteristiche di penalizzazione, di pochi accessi limitati, ristrutturazione secondo loro. Ed è un primo passo, è stato un primo passo verso le città dei 15 minuti. Piano anche se l'attuale piano del traffico. L'unica cosa è che poi è venuta l'emergenza Covid, questa cosa è rimasta lì, però come dice giustamente Margherita è ancora in vigore. Quindi è una cosa che viene da lontano. E uno degli elementi che vengono scritti nero su bianco nel piano Roma Smart City dice che non importa il tipo di giunta che ci sarà, non importa il tipo di configurazione politica, perché questo progetto è trasversale e andrà avanti a seconda della giunta che ci sarà, non cambierà. Ha un primo obiettivo nel 2030. La definizione totale di Roma Smart City è prevista per il 2050. Allora, in questo contesto che cosa succede? Succede che per quanto riguarda il traffico viene istituita la famosa fascia verde. Questa fascia verde sarebbe una un perimetro che della città perimetrata quasi quanto tutta quella dentro la corda anulare, in cui possono entrare soltanto i veicoli che vengono dichiarati non inquinanti. Già doveva entrare in vigore lo scorso 1 novembre del 2023, invece l'hanno posticipata al 1 novembre 2024. Perché questo? Perché già l'anno scorso aveva suscitato un po' di maretta e il comune sta mettendo in atto quello che si chiama il sistema della rana pulita, no? Cioè sta facendo una cosa un po' alla volta, un passo avanti, un passo indietro, perché abbiamo letto, io sono andata a leggere sul comune di Roma quali veicoli entreranno e quali non entreranno al 1 novembre 2024, e già abbiamo visto che hanno tolto l'Euro 4 diesel che l'anno scorso era compreso. Questo perché? Perché l'Euro 4 è molto più comune, l'Euro 3 ce l'hanno in pochi, quindi loro il problema è di far passare l'idea, cioè vogliono far passare l'idea dei varchi controllati, del fatto che tu hai un perimetro di città in cui puoi entrare soltanto a certe condizioni, quindi io ti lascio ancora entrare, tu però ti devi rendere conto che entro tot anni ti devi adeguare. L'idea è che tu man mano devi accettare i limiti ai tuoi spostamenti, la costruzione dei corpi, il limite dello spazio che ti è concesso e come lo devi vivere. È prima di tutto ideologica la cosa, prima che fisica. E loro giocano proprio sul fatto che tu in effetti dici che bello, ma non c'è più l'Euro 4, meno male, e non sei portato a contestare. Anche questo per noi sarà un problema, perché la insofferenza della popolazione è testata molto spesso e quasi sempre quando c'è un problema diretto per cui tu non puoi entrare, entri in sofferenza. Ma quando sai che tu puoi entrare ancora per 2 anni o comunque tu puoi entrare vicino, no, tutto sommato sei anche contento. Questa cosa qui è un gioco che noi non dovremmo permettere, invece. Cioè lo dobbiamo sapere. Questo per quanto riguarda la viabilità, fermo restando che Roma si presta a tutto quello che stanno sperimentando nelle altre città, cioè il centro storico rinascimentale del Tridente, dato che ha oltretutto i luoghi del potere, sicuramente farà la fine dell'ingresso a ticket, questo è più che sicuro. Questo però è un discorso che faccio io distopico perché non c'è scritto da nessuna parte. Pedaggi sì, ma come pedaggio secondo pedaggio. Me non si entrerà, il pedaggio delle mura aureliane sì, ma secondo me non si entrerà proprio, cioè faranno come a Venezia che non entri proprio neanche con il ticket, perché il ticket è per i turisti, non esiste, cioè sì, è formale, però non esiste. Una cosa che ci tenevo, no, una cosa che ci tenevo ad aggiungere a quello che ha detto Giulio è questo rispetto al ticket di Venezia, che il ticket di Venezia sembra fatto per i flussi turistici, ma non è fatto per i flussi, perché tutti si dovranno dotare di un QR code. Allora, io devo dimostrare col QR code che ho pagato i 5 euro per entrare, ma poi devo dimostrare col mio QR code che sono uno studente, che sono un lavoratore, che sono un residente, che sono un temporaneo, che sono parente della GACAN, non lo so, però devo avere il mio QR. Quindi c'è un monitoraggio. E secondo me nella parte storica dove ci sono i palazzi del potere finiranno per fare questo, che tu entrerai solo con quel record se sei autorizzato, perché gli va a fagiolo, cioè voglio dire, così tengono lontano da una zona a rischio qualsiasi tipo di possibilità di neanche di avvicinarsi, no? Posso aggiungere una cosa su Venezia? Sì. Nell'applicazione pratica si è visto che tantissima gente era contentissima di andare lì col QR code a farsi scansionare, a sostenere la dietro l'identificazione di Venezia, mentre chi contestava questa iniziativa e cercava magari anche di farsi multare, di farsi sanzionare, non riusciva in nessun modo a farsi sanzionare. Questo per ritornare al concetto che comunque la cosa importante è che passi. E che passi. Anzi, nel modo più lieve possibile, in modo che diventi poi strutturale. E questo è vero, è proprio questo, per quello dicevo che il problema ideologico non è formale, cioè passano attraverso. E adesso stanno facendo a macchia di leopardo anche altri esperimenti. Per esempio, il primo è del 2021. Sulle piazze smart, no? Devono fare 100 piazze digitalizzate a Roma. Di queste 100 piazze, la prima è stata nel 2021 quella pietralata, non so come si chiami, in cui ci sono, è stata ristrutturata, è stato fatto il verde, io non l'ho vista, è quello che raccontano loro, quindi se qualcuno la conosce me lo dica, però ci sono i lampioni intelligenti, ci sono le panchine intelligenti, no? Cioè le panchine intelligenti in cui tu puoi infilare la spina e puoi caricare lo smartphone. Il lampione intelligente ancora visivamente non è tarato per riconoscimenti facciali, perché non il garante della privacy, però è preparato, quindi quando una cosa è preparata non so quanto ci metteranno, ma poi parte. E tutto questo chiaramente ci ha fatto passare per abbellire un posto, oppure a Macchia di Leopardo, a Casal Monastero, che hanno fatto, che è oltre d'accordo se non mi sbaglio, hanno fatto una sperimentazione sui 30 all'ora per vedere come funziona la mobilità durante allora, e quindi e i cittadini di Pietralata, di Casamonza, neanche si accorgono di questa sperimentazione che è in atto, no? Se ne accorgeranno quando loro poi portano la sintesi e lo fanno dappertutto, però quella volta prima è troppo tardi, perché tant'è vero che adesso hanno fatto gli impianti per i varchi, quelli della ZTL, della fascia verde, ci sono già, li hanno fatti e non li mettono in atto, non funzionano ancora, passeranno solo l'euro, dall'euro 4 in poi, però ci sono. Perché in realtà in questo momento stanno monitorando statisticamente i flussi, cioè sono operative, non vengono date le sanzioni, le discriminazioni, però... Sì. Però certo, sono per te. Poi c'è il monitoraggio delle metropolitane, quello che sta succedendo anche sugli autobus di terra, che per esempio sugli autobus sulle linee normali stanno mettendo tutte le macchinette per i biglietti, quelle con la carta di credito, no? E spariranno le macchinette normali, perché così tu, prima di tutto, una cosa che a me dà fastidio, cioè mi ha mandato in bestia, non puoi passare il biglietto al vicino poi, no? Se tu fai il biglietto adesso scendi e dici senti, vuoi il biglietto perché tanto dura ancora un'ora, e no, viene altro sulla carica. Sì, il parcheggio, soprattutto prima potevi lasciare, un po' secondo me ci hanno perso economicamente, ma sì. È il messaggio che tu non puoi condividere, non esiste, quello è tuo e basta. Per esempio, e questa per esempio sulle metropolitane è una cosa molto grave, perché loro hanno messo il riconoscimento dei comportamenti non conformi, e quindi nelle metropolitane tipo Red Wolf, quello che ha dei problemi, Zazà verrà identificato da una luce particolare e quindi verrà fermato. Stanno mettendo in campo anche, non la Smart Control Room di Venezia, ma una cosa che apre la strada alla Smart Control Room, perché hanno fatto centralizzato tutti i... hanno fatto una centrale di polizia urbana che dovrà in tempi brevi raccogliere poi anche le altre centrali di polizia, quindi diventerà un polo, e vi dico anche dove sta, in via della Consolazione, sì, in via della Consolazione, non so dove diavolo sta, Poi, per esempio, stanno pedonalizzando dei grossi. Stanno pedonalizzando degli snodi importanti nella mobilità della città. Una è Piazza Pia, quella di Vaticano, una è Piazza della Repubblica e l'altra San Giovanni. Che vuol dire questo? Allora tu dici, vabbè, stanno pedonalizzando questi, sì, questi tre grossi, pedonalizzando, non facendo entrare questo qui. Ma è molto grave per un motivo, perché tutte e tre queste zone sono delle zone di scambio di traffico urbano all'interno della città molto importanti. Quindi pedonalizzare significa tagliare i pezzi di città in modo che per attraversarli tu devi fare dei giri inenarrabili. E questo perché provocherà un incremento del traffico, un ulteriore disagio, un ulteriore livore del cittadino verso la macchina, che loro fa soltanto poco. Quindi nulla di quello che stanno facendo è casuale. Allora noi ci dobbiamo porre il problema di come rispondere a questo. La 1 abbiamo il problema della ZTL che a novembre non va via, però ci dobbiamo porre il problema di come rispondere, perché sarà tipo l'anna bollita, entrerà soltanto, cioè la maggior parte della gente continua a entrare, e quindi come sensibilizzare sul fatto che fra 2 anni non entra nessuno. Dopodiché il problema delle smart city come identità di quartiere che loro sfrutteranno, e questo è molto importante perché lo faranno passare come bene comune, cioè il concetto di bene comune che sta attraversando questa sperimentazione è molto pericoloso, perché se tu non sei per il bene comune sei come quel che passa fuori dai cittadini legittimi, perché sei uno che non capisce, sei un violento, sei un... E l'altra perché di fatto i cittadini vengono coinvolti direttamente. Cioè, già in Urban Operation 2020, il piano della NATO fatto 20 anni fa, era prevista come modalità per affrontare i subalterni la spinta alla partecipazione. Cioè alla partecipazione, al coinvolgimento, erano tre cose, la partecipazione, il coinvolgimento e la delazione. Queste erano le tre direttive e in effetti è quello che stanno mettendo in atto. Quindi noi ci dobbiamo porre questo problema, come intervenire sui quartieri, come intervenire sulla ZTL a novembre, perché è il primo step che abbiamo. E come far capire che è un progetto ideologico e non è un progetto per il traffico, per la qualità dell'aria, per le macchine elettriche, lasciamo perdere, che praticamente ammazzeranno l'Africa e non sappiamo dove buttare le batterie. Quindi, cioè, voglio dire, è una cosa terribile. Però noi ci dobbiamo porre, la prima cosa che ci dobbiamo porre è come opporci a questo progetto, perché non è facile, opporsi a questo progetto non è affatto facile. Un paio di specifiche su Roma, sì. La Smart Control Room che è prevista sicuramente dovrebbe integrare in un'unica sala di controllo tutta la videosorveglianza dei parchi, sia della fascia verde ma anche della ZTL Centro, Trastevere, San Lorenzo, Testaccio. Dovrebbe mettere a sistema tutta quanta la videosorveglianza, utilizzando anche degli strumenti di intelligenza artificiale per elaborare i dati che ne trae. E poi c'è la questione del Giubileo del 2025, sì, sì, che è centrale soprattutto perché c'è un accento forte sulla sicurezza urbana, garantire che il pellegrinaggio, il turismo sia in una maniera praticabile ovunque in modo sicuro. E quindi 1000+ nuove telecamere, Wi-Fi 5G ovunque, gratuito per tutti, colonnine intelligenti. agenti nelle piazze, le varie funzioni, quindi dopo che, cioè, da una parte città bloccata con 3.000 cantieri infrastrutturali, non so se ne stimano 150. Allora, no, no, mi sono aggiornata. Allora, sì, questa del Giubileo è la scusa per le mani, sì, è il pretesto ideale per poter mettere le mani su Roma. Dunque, a novembre erano aperti 132 cantieri. Al 1 febbraio sono aperti 1.400 cantieri pubblici e 5.000 privati per il giugno. Una roba spropositata che risponde a un impegno economico da paura, nel senso ci sono... Febbraio 25 o 24? Non ho capito. Febbraio 25 o 24? No, 24. Quindi già... Adesso, sì. Il 1 febbraio è passato il resoconto dei cantieri aperti e sono 1.400 erotti pubblici e 5.000 erotti privati per il Giubileo, cioè con la scusa del Giubileo, perché poi hanno, con la scusa del Giubileo, hanno messo in atto tutta la rete 5G, cioè tutta la rete 5G è stata impiantata e attiva, eccetera, eccetera. Quindi lo sforzo con i soldi del Giubileo e con i soldi del PNRR è stato quello di impiantare il 5G, impiantare la rete digitalizzata e impiantare questa. Quindi, cioè, la situazione è questa, l'importante in questo momento è saperlo, bisogna saperlo, e bisogna porsi il problema di come, di cosa fare. Ci sono anche le colonnine nere. Sì, smart road. Smart road. Posso dire, hai visto le colonnine nere che ci sono sulla Nord e sono anche dentro Roma? Quella lì è un progetto che hanno fatto con la Smart Road, che è già stato finanziato e l'hanno costruito. E in realtà non hanno ancora la possibilità di utilizzarlo, l'hanno costruito per le notti da futura, perché serve per le macchine a guida autonoma e per la gestione del traffico. Quindi, in stazione Roma. Esatto, nel senso che tutte queste colonnine sono tutte collegate tra di loro. No, no, già montata, no, già fatta. No, ci sono lobby internazionali che dominano, che hanno già ci sono, cioè le colonnine già ci sono, è già tutto cablato e pronto, cioè se girate sulle cose vedete. Ci sono già tutte le colonne lì, ognuna di queste ha telecamere, ascensori, sono tutte collegate in rete tramite la rete 5G e funzionano, che praticamente loro controllano il traffico grazie ai sensori che avranno montato le macchine, perché già hanno montato tutte le macchine, e in più danno la possibilità, appunto, alle macchine a guida autonoma di capire dove sono, monitorano il traffico, quindi sanno quali sono i punti più... E nel caso in cui ci sia un incidente di qualsiasi tipo, fanno automaticamente mettere in volo i droni che vengono a controllare cosa sta succedendo e che decidono cosa fare di quell'incidente che si crea. E quindi qualsiasi incidente della macchina si può controllare qualsiasi cosa che succede sulla strada. Addosso. Comunque sta di fatto che non è una cosa, un progetto futuro che devo, è già pronto, cioè già fatto, le colonnine nere vedete ovunque in giro di Roma, e l'accordo è già tutto completamente pronto. Sulla Roma Fiumicino e sull'accordo. Sì, sì. Ci sono anche sul vialone, ad esempio, della Bufalotta, piuttosto che sulla Portuense dopo l'accordo, diciamo, interno. Comunque, insomma, questo giusto per saperlo, che è una cosa in più, un pezzetto in più, perché ovviamente sono, come dicevamo prima, sono tutti piccoli pezzetti che, presi singolarmente, uno neanche capisce. Anche sui semafori ogni tanto aggiungono un apparecchio in più che dici, ma che diamine è quella roba, perché ovviamente poi non è che pubblicano poi tutto, però andandosene poi a studiare, insomma, tutta questa roba si muove tramite cavi o 5G, quindi tramite dei venditori, per cui una cosa interessante è anche andare a vedere bene come funziona poi la rete infrastrutturale, nel senso che, ad esempio, i venditori 5G per funzionare hanno bisogno di energia elettrica, quindi ha bisogno del cavo elettrico proprio che arrivi lì, spesso di fibra ottica, quindi del cavo di fibra che arrivi lì. I data center hanno bisogno di fibra, fasci di fibra grossi, tanta alimentazione di corrente, per cui in realtà tutta l'infrastruttura poi si muove anche su dei parametri, cioè delle basi fisiche, che però siccome loro non pubblicizzano, non amano pubblicizzare, secondo me è una cosa di inchiesta che stanno con compagni e compagne provare a fare, perché immagino che anche la creatività, cioè la capacità di pensare a ipotesi e possibilità di protesta o di resistenza, nel senso che metterci in passione tra loro e questo sviluppo terribile che hanno in mente loro, passa dal fatto di una conoscenza che dobbiamo assolutamente avere pratica di come fare anche. Nel senso che se non abbiamo quel tipo di conoscenza, le idee che ci verranno saranno sempre più o meno risolute. Quindi per darci un minimo di credibilità in più dovremo forse studiare queste cose, anche apprezzare le indicazioni che ci hanno da altre parti del mondo di cose che succedono, che sono interessanti.